Esauriamo innanzitutto la pagina dei ringraziamenti. Io ringrazio Giulietta Ottaviano per lo sforzo organizzativo che ha consentito, attraverso proprio Roma Lazio, di organizzare questo che vuole essere il primo momento di un percorso abbastanza lungo che abbiamo davanti e che cercherò di brevemente di illustrarvi prima di dare la parola ai relatori. E ringrazio anche Mimmo Rossi, il segretario regionale di FNC CGL, che come sempre diciamo, ha sostenuto e sostiene le iniziative di Proteo e che dunque anche attraverso la sua presenza fisica e il suo intervento certamente contribuirà alla nostra discussione e all'esito positivo dei nostri lavori. Il lavoro di questa sera vuole essere il primo passo di un percorso che riteniamo debba comportare una riflessione, uno studio, l'elaborazione di proposte rispetto alla situazione attuale del sistema scolastico italiano, soprattutto alla luce degli ultimissimi eventi. L'annuncio da parte del ministro Gelmini di una riforma, diciamo, metto in termine tra virgolette, che riguarderà il liceo a partire dall'anno scolastico 2010-2011, sembra, diciamo, una prospettiva lontana a valutarla oggi, in realtà è dopodomani, il che, diciamo, richiede appunto la massima attenzione da parte nostra per non solo evidenziare tutto ciò che non va di questa proposta Gelmini, ma anche, come riteniamo si debba fare da parte nostra, elaborare appunto, se possibile, un'idea di scuola alternativa rispetto a quella che emerge da queste proposte del governo. E siamo proprio oggi di fronte alla presentazione dei dati OCSE riguardanti il sistema scolastico italiano. Io non ho ancora avuto modo di analizzarli, so solo per aver ascoltato il telegiornale delle 13.30 che ora il ministro Gelmini si vanta anche dell'aumento del 1,x% delle bocciature, quale segnale, dice lei, di una ritrovata serietà da parte del sistema scolastico italiano. Cioè siamo di fronte all'autorizzazione della scuola che esclude anziché includere, della scuola che emargina anziché integrare. Comunque variazioni dell'1,0, scusa, io tra la statistica, ma sono significative di punto, perché a parte in senso sì, di età. Sì, ma l'elemento politico, l'elemento politico significativo è che venga risaltata. Quindi un lavoro, il nostro, che si articolerà per momenti successivi. Il seminario, il lavoro che svolgeremo questa sera, dovrebbe consentirci di mettere a punto una riflessione più articolata che sarà alla base di un convegno nazionale o di un paio di convegni nazionali che vorremmo organizzare come Proteo agli inizi del prossimo anno scolastico. Probabilmente ne faremo un paio, diciamo, studiando anche la collocazione geografica più opportuna. E quindi avremo questo ulteriore momento e avremo poi una prosecuzione di un lavoro, diciamo, di gruppo aperto a chiunque voglia, anche a partire dai lavori di questo pomeriggio, aggregarsi a un gruppo che già in qualche modo ha lavorato e che proseguirà appunto nella sua attività fino all'entrata in vigore poi della cosiddetta riforma Gelmini. Quindi un lavoro di lunga lena che vuole appunto cercare di aggredire i nodi più critici del sistema scolastico e formativo italiano. I punti che vi proponiamo questo pomeriggio sono sostanzialmente sei e intorno a questi punti si articoleranno le relazioni di Marina Boschetto, di Aldo Musciacco e di Marco Guastalini. Un primo punto riguarda il problema della dispersione scolastica, cioè appunto un'analisi di ciò che significano nel nostro sistema gli insuccessi e le bocciature, anche in relazione ovviamente alle dichiarazioni di attualità del Ministro. Un secondo punto intende affrontare le questioni attinenti alla didattica in generale. Terzo punto, la questione dell'obbligo e il mancato biennio unitario, che è uno dei punti, diciamo, a mio avviso, più gravi della proposta Gelmini. Un quarto punto riguarda la logica degli interventi Gelmini-Tremonti, e cioè, come dire, la visione economicistica che presiede agli interventi appunto fin qui adottati da questo governo. Devo dire non solo per questo governo, diciamo, ormai è una tradizione abbastanza consolidata nelle politiche scolastiche di questo paese basare gli interventi su considerazioni di carattere finanziario, economico, piuttosto che educativo, pedagogico, formativo. Quinto punto, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella scuola e infine tutto ciò che attiene agli aspetti relazionali ed emozionali dell'apprendimento. Quindi, come vedete, già questo primo, come si direbbe con termine inglese orribile ma molto usato, questo primo screening di questioni si avrà modo, penso, di discutere e di approfondire nodi anche strutturali, diciamo, del sistema scolastico e formativo del nostro paese. E quindi io a questo punto, anche per recuperare almeno in parte la mezz'ora che già abbiamo perso in partenza, darei la parola a Marina Boscaino, che è docente della lingua italiana e latina al Liceo Plauto di Roma, nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale di Proteo. Seguirà poi relazione di Aldo Musciacco del CD di Napoli e infine chiuderà la parte relativa alle relazioni Marco Costantina, docente a Torino. Il CD di Napoli tutti e tre in realtà. Ah, noi siamo tutti e tre Marco Costantina, docente a Torino, rispetto di tecnologie della didattica. Allora chiamo subito la parola a Marina Boscaino per la prima delle tre relazioni. Allora, sì, dunque, in realtà rispetto a quello che ha detto Gennaro e al programma attraverso il quale noi intenderemo proseguire e perseguire nei prossimi mesi, per quanto riguarda la trattazione degli argomenti, oggi abbiamo deciso di apportare qualche variazione, nel senso, noi abbiamo organizzato questo documento proprio come un dossier di tematiche tematiche scorporate l'una dall'altra, come un dossier, quindi, proprio perché abbiamo preso in considerazione alcuni elementi del sistema che ci sembravano particolarmente significativi al fine di cominciare a riflettere sulla possibilità di organizzare un pensiero diverso rispetto a quello che sta dominando riguardo alla cosiddetta riforma della scuola superiore. In questo senso toccherò molto rapidamente alcuni punti che invece secondo me andranno poi in futuro sostanzialmente approfonditi. In particolare parlerò della dispersione molto rapidamente, perché la dispersione è un problema talmente fondamentale, talmente nevralgico e talmente indicativo naturalmente delle criticità di un sistema scolastico che merita e meriterà certamente, nel momento in cui dovessimo riuscire ad organizzare questo convegno come vogliamo, uno spazio apposito, particolare e certamente più approfondito. Dunque, il nostro tentativo è stato quello di proporvi alcune suggestioni che al momento non sono sistematizzate, tentando di assumere dei punti di vista che siano, ripeto, divergenti e profondamente informati alla cultura del dubbio, proprio per rappresentare una controparte rispetto a quello che sta succedendo adesso. I dati a cui faceva riferimento Gennaro prima, questo sbandieramento dell'1,8% in più di bocciati come di non ammessi all'esame di Stato, che viene appunto raccontato come un elemento significativo e probante rispetto all'autorevolezza, alla sistematica serietà del sistema, della maggiore serietà del sistema scolastico, naturalmente ci lasciano completamente perplessi si accompagnano, come sapete, ad una serie di provvedimenti che sono stati presi quest'anno, che peraltro erano stati in qualche modo anticipati anche da governi che forse avrebbero potuto prendere posizioni differenti in passato. Quindi vorremmo cercare, peraltro, attraverso la proposizione di queste parole diverse, diciamo di queste parole, insomma, dalle quali noi crediamo di dover partire, allontanarci da invece una serie di parole che sono diventate quasi totalmente però prive di significato, comunque dei luoghi comuni che negli anni si sono replicati, che sono parole che avrebbero una propria significatività specifica, ma che l'hanno persa attraverso un abuso, tipo mi viene in mente il curriculum, mi vengono in mente le buone pratiche, mi viene in mente appunto l'autorità nella scuola, mi vengono in mente insomma una serie di atteggiamenti che o hanno puntato l'occhio esclusivamente, il focus esclusivamente su un elemento, in particolare l'oggetto e non il soggetto dell'apprendimento, oppure hanno, come dire, esternato e conclamato degli atteggiamenti che poco hanno a che fare col sistema scolastico e con l'educazione e con la cultura. Dunque, il punto di vista dal quale cerchiamo di partire è che esistono, la realtà costituisce di per sé stessa ontologicamente un sistema complesso, al cui centro noi possiamo porre l'individuo, intorno al quale girano una serie di variabili, di cui qui ne ho riportate solamente tre più evidenti, che sono la famiglia, tutto l'ambito del sociale, che naturalmente può essere scorporato in mille aspetti e mille atteggiamenti, e naturalmente la scuola. Tra queste variabili che ruotano intorno all'individuo ci possono essere combinazioni infinite, e anche quindi queste variabili stesse nelle loro infinite combinazioni dare vita ad un'infinità di possibili esperienze. Tra alcune di queste variabili individuate esiste un l'indice di correlazione che spesso si manifesta come significativo e può risultare dirimente dal nostro punto di vista rispetto alla posizione da prendere nella rilettura di quelli che debbano essere, di quelle che debbano essere le caratteristiche del sistema dell'istruzione e di quelle che devono essere le finalità alle quali quel sistema deve tendere. Perché non funziona? Perché è una tecnologia. Ah, ok. Io nel passato, insieme a Marco ed Aldo, ho curato un dossier per il CIDI, appunto, che è il dossier per una relazione educativa contro la dispersione, era 2 anni fa, e mi riferisco in particolare ad un articolo che era sostanzialmente l'articolo introduttivo importante di tutta di tutto il dossier di Aldo Musciacco, che parlerà dopo di me, e in cui appunto partendo dall'idea che esiste questo sistema complesso con al centro l'individuo e di cui la scuola rappresenta una delle variabili, si chiedeva a sua volta alla scuola che tipo di sistema, cioè che tipo di sistema è. Dunque la scuola ha istituzionalizzato come propria missione fondamentale quella dell'azione formativa e dell'azione valutativa, mentre ha dato progressivamente sempre meno spazio alle azioni volte a favorire l'adattabilità e la flessibilità a questo contesto che si presenta, come dicevo prima, per sua stessa natura particolarmente complesso. Il sistema educativo di fatto rappresenta, così come si è concretizzato e si sta progressivamente concretizzando nel nostro paese, un sistema non flessibile, un sistema incapace di riadattarsi alla dimensione del reale che invece è in continuo mutamento, e che è un sistema che, facendo leva sulle sue due finalità fondamentali, cioè l'azione formativa e l'azione valutativa, funziona indipendentemente dalla valutazione delle differenti situazioni, cioè da quella valutazione che vorrebbe l'individuo al centro di questo sistema complesso. Si tratta pertanto di un sistema semplice che ha di per sé stesso, e peraltro apro una piccola parentesi, la risultanza per quei dati dimostra che anzi l'immobilità del sistema è proprio preso come elemento imprescindibile e positivamente valutato, si configura come un sistema semplice. Sempre Aldo nel dossier parlava di questo sistema scuola, che quindi può essere da una parte una rappresentazione semplificata della realtà, in quanto appunto non valuta le situazioni, non fa fronte alle situazioni singole, individuali, e che di fatto questa rappresentazione semplificata della realtà, se è vero che la scuola è una micro società all'interno della società che di per sé è complessa e vive proprio e si alimenta della propria complessità, è totalmente dicotomica rispetto appunto alla complessità del sistema. Il sistema scuola di fatto si basa sull'omeostasi, cioè una assoluta immobilità e un progressivo irrigidimento di quelle che sono le caratteristiche che nei decenni si sono ritenute essere quelle sulle quali il sistema stesso si doveva configurare. Peraltro, anche qui apro una piccola parentesi, appellandosi ad una contiguità con la tradizione come un fatto anche qui estremamente positivo e come dire, qualificante per il sistema stesso. Questo porta a, come insomma credo chiunque di noi entri in una scuola si rende conto, che proprio la mancanza di flessibilità invece di quel sistema è l'elemento più diciamo significativo dal punto di vista poi dell'inefficacia, dell'insuccesso e poi infine della dispersione che il sistema produce. La tecnologia continua. Allora, la nostra prospettiva invece è quella di, come dire, provare a intervenire, a programma pedagogico alternativo e porre la centralità del soggetto rispetto alle conoscenze, cioè ribaltare il paradigma tradizionale sul quale noi e soprattutto sul quale i governi si sono allenati, direi in maniera piuttosto continuativa, ad esercitarsi, e pertanto in seguito a questo cambiamento di prospettiva reale, non diciamo di facciata, perché poi sappiamo che tra le parole abusate ci sono state anche delle interpretazioni particolari della relazione, della mediazione educativa, della cura, però noi tenderemo, e lo farà certamente Aldo che si è occupato in particolare di queste cose, a dare una lettura diversa da quella che invece è stata istituzionalizzata anche rispetto a quegli ambiti, e pensiamo che la mediazione sia lo strumento primario per far sì che l'inflessibilità del sistema diventi invece flessibilità, e quindi questo sistema omeostatico che è la scuola, cioè immobile, contenitivo e adattato assolutamente alla propria autoreferenzialità, diventi un sistema flessibile, un sistema non omeostatico, un sistema quindi capace di inglobare e di raffinarsi rispetto alla complessità dell'esistente del quale deve fare carico, cioè l'idea di quale deve farsi carico. L'idea che noi abbiamo avuto è quella di rendersi conto, entrando in classe tutti i giorni più o meno, del fatto che noi continuiamo all'interno di quel luogo geometrico che è la scuola ad individuare delle condizioni di realtà che vengono sostanzialmente delegittimate, se non sconfessate, nel momento in cui loro varcano il portone di scuola. Il che non significa ovviamente che per esempio un abbassamento dei livelli o una delegittimazione degli strumenti culturali che la scuola pure deve assolutamente continuare a garantire, significa assumere una prospettiva di carattere diverso. La vera cultura si riflette. Esattamente, la vera cultura, poi le tre ore in meno ci fanno fortemente riflettere, semmai fosse quello il problema. Comunque, la centralità del soggetto rispetto alle conoscenze ci è sembrato un elemento imprescindibile in una serie di valutazioni. Innanzitutto nell'analisi di quello che, di come la scuola si è configurata negli ultimi decenni e delle criticità che sono state evidenziate, della valutazione delle procedure didattiche che sono state assunte nel corso dei decenni, l'organizzazione dei contenuti e delle modalità di trasmissione, la sostenibilità degli assetti ordinamentali, la valutazione di alcune macroscopiche o meno disfunzioni del sistema, che sono la distivazione, sono l'insuccesso formativo, per successive approssimazioni fino ad arrivare al macro fenomeno della dispersione scolastica, e tenderemo a creare un ribaltamento attraverso la centralità del soggetto rispetto alle conoscenze, ponendo al centro degli elementi la relazione e la cura, e anche ci è sembrato importante assumere il punto di vista che sono paradigmatici da questo punto di vista, perché sono molto significativi di un tipo di approccio delle tecnologie della scuola, impedendo alle tecnologie all'interno della scuola di spiegare realmente una funzione formativa, una funzione culturalmente significativa, ma come poi sappiamo e come dirà molto meglio di me Marco, invece le tecnologie sono state confinate ad una condizione di tecnicalità, di saper fare eccetera eccetera, che ne ha in qualche modo totalmente anche indebolito, forse in maniera irreversibile, le potenzialità dal punto di vista culturale, dal punto di vista educativo. Una conseguenza appunto evidente del fatto che l'oggetto sia stato sempre sovrastante rispetto al soggetto nell'organizzazione scolastica, in particolare nelle scuole superiori, è quella divaricazione sulla quale la scuola e gli assetti della scuola e i programmi della scuola si sono basati finora, tra sapere e saper fare. Il sapere si fa riferimento parlando sostanzialmente di conoscenze teoriche, mentre il saper fare è, come dire, il senso appunto di di una tecnica, di un sapere strumentale, di una tecnicalità, eccetera. Questa è dal nostro punto di vista una falsa antinomia. In che senso? Nel senso che innanzitutto al concetto di sapere afferisce sostanzialmente un'idea di univocità del concetto di cultura, cosa che noi tenderemo, proprio perché dobbiamo fare riferimento ad un mondo che è complesso, che è diverso, che è mutato nel corso dei secoli, avere un unico tipo di paradigma culturale e un unico tipo di un unico concetto di cultura è assolutamente un approccio assolutamente miope. Come cercheremo di proporre nella scansione dei saperi, noi siamo per un allargamento dei confini di ciò che la scuola deve proporre anche a livello di saperi, di conoscenze e di contenuti. E invece il saper fare ha portato con sé questa divaricazione e, diciamo, per quanto riguarda il saper fare, c'è stato sempre un tentativo di svincolarlo totalmente dalla dimensione culturale, che appunto l'ha confinato in una tecnicalità. Questa divaricazione tra sapere e saper fare è stata fatale nell'organizzazione proprio sistematica della nostra scuola. Cioè, noi sappiamo che l'istruzione liceale e l'istruzione tecnico-professionale rappresentano di fatto, certo non nelle intenzioni, certo non nelle buone parole che in qualche modo introducono sempre, hanno introdotto anche le bozze di regolamento sull'istruzione tecnica e professionale, di fatto rappresentano due filoni totalmente svincolati. Dall'epoca della Moratti in poi questo processo è stato drammatico e drammatizzato totalmente dai provvedimenti che sono stati presi. La divaricazione dei destini individuali delle persone, dei ragazzi, avviene proprio nella scelta precoce della scuola superiore, e che è fatta sostanzialmente su base sociale o comunque sulla base di disapprendimenti precedenti. Quindi comunque c'è una canalizzazione che fa capo a due rationes che sono assolutamente antitetiche rispetto ad un concetto alto, bello, positivo, formativo di ciò che la scuola superiore dovrebbe incarnare. Vi do solamente molto rapidamente alcuni dati. Pensate che il 75%, mi pare, degli alunni con portatori di handicap diversamente gravi stanno nell'istruzione professionale. Il 70% degli alunni migranti stanno nell'istruzione professionale. La dispersione scolastica, con dati, poi io ho tutti questi dati perché ne ho parlato in un'occasione precedente in cui proprio parlavo di dispersione, però l'incidenza degli alunni che ripetono per almeno 3 anni il corso, diciamo che rimangono per 3 anni in più all'interno dei 5 anni dell'istruzione professionale, è drammaticamente più alta rispetto a qualunque tipo di liceo e anche rispetto all'istruzione tecnica. Allora è chiaro che si tratta proprio di una divaricazione che rappresenta uno specchio della società che si vuole immobile, naturalmente. Cioè, abbiamo mai un bel dire sull'ascensore sociale, sulla possibilità, sulle pari opportunità, ma in realtà non è vero. Si nasce con un destino che bene o male viene poi canalizzato in maniera quasi automatica nella misura in cui il nostro sistema si è conformato in questo modo. Peraltro con un'ulteriore miopia, perché è chiaro che un'istruzione tecnico-professionale con una dignità culturale molto alta, con una capacità di inserimento culturalmente, didatticamente, educativamente significativo all'interno della società, potrebbe essere invece un elemento strategico dal punto di vista del progresso e della crescita del nostro paese. Le bozze, i regolamenti approvati recentemente ci dicono proprio che questa idea noi ce la dobbiamo proprio completamente scordare, perché se è possibile, anche rispetto a quelli che erano i pessimi progetti della Moratti, che erano stati poi in qualche modo, con un tentativo che poi si è rivelato inefficace perché si trattava di un vecchio progetto di Prodi che aveva investito in particolare sull'istruzione tecnica, c'era stato un tentativo di migliorare la situazione, poi Fioroni ci ha messo il annullato qualunque sforzo precedente, la scuola, l'istruzione tecnico-professionale proposta dalla Gelmini è ancora peggiore da questo punto di vista, dal punto di vista dell'impoverimento. Quindi diciamo questa divaricazione non solo è colpevole, diciamo, di una non sinergia, come cercherò di dimostrare, tra questi due aspetti, che invece sono due aspetti costitutivi e fondamentali per gli apprendimenti e che andrebbero invece implementati appunto e incentivati in maniera omogenea all'interno della scuola, ma è stata poi colpevole dell'idea che appunto se uno non c'ha voglia di studiare va a lavorare e tutte le conseguenze di cui sappiamo, e nel contempo dell'impoverimento di un settore dell'istruzione superiore che raccoglie il 70% dell'utenza dei ragazzi al di sopra dei 14 anni, quindi come dire una fetta enorme di popolazione che viene incanalata, convogliata verso questa scuola di serie B, parliamoci chiaramente, ma non ovviamente di serie B, dico come intenzionalità culturale, certamente non come ovviamente professionalità dei docenti o cose di questo genere, cioè c'è proprio una progressivo incancrenimento dell'idea che in quel settore, in quel segmento dell'istruzione superiore, secondaria e superiore, si debbano convogliare quelle fasce di popolazione di cui vi parlavo, indipendentemente dal personale, indipendentemente, e concludo qui perché credo che ne sappiate anche più di me, di questo, i quadri orario, l'organizzazione, l'architettura, l'impossibilità di creare passerelle tra un indirizzo e l'altro, ed una serie, le quote di autonomia che sono, di flessibilità che sono inserite all'interno dell'istruzione tecnico-professionale, i comitati tecnico-scientifici che vengono inseriti all'interno di quelle scuole e che quindi aumenteranno una serie di derive, parlano in questo senso. La nostra proposta, appunto, e possiamo andare avanti tranquillamente, è quella di sostituire al concetto di saper fare il concetto di saperi strumentali, quindi inserire con una, ovviamente qui si tratta di un'etichetta che lascia il tempo che trova, però come diciamo con Gennaro, a volte anche la forma alla sua significatività, forse la sostituzione e l'inserimento all'interno dei saperi di quello che noi abbiamo sempre semplicemente catalogato come il saper fare, quindi qualcosa che è sostanzialmente contiguo esclusivamente alla pratica, renderebbe più dignità a questo elemento che noi riteniamo fondamentale nell'organizzazione di un progetto di scuola. Su quello, devi puntare sul sensore. Su quello. Scusa. Non avevo capito. Vabbè, lo sai che io ho una visione. Dunque, quindi saperi strumentali e conoscenze sono imprescindibili nella nostra idea di scuola e collocabili sullo stesso livello culturale, con la stessa dignità culturale. Perché? Perché i saperi strumentali, di cui poi parleremo, rendono per loro stessa natura le conoscenze, cioè la parte sublime dell'istruzione, quella diciamo sostanzialmente dedicata al liceo, conoscenze dinamiche, estendibili, manipolabili, vive, spendibili, emancipate dalla loro unicità e definitezza. Le conoscenze a loro volta, in una sinergia con i saperi strumentali, renderebbero diventerebbero in realtà il viatico fondamentale per l'interpretazione, perché poi ovviamente come ognuno di noi sa, il motivo per cui noi convogliamo conoscenze all'interno della scuola è affinare certamente il concetto di cultura, ma quello di rafforzare in maniera progressiva quelle che sono le competenze di cittadinanza, cioè la coscienza critica dei nostri alunni, che certamente tra due anni non ricorderanno le date delle edizioni dei Promessi Sposi, ma che probabilmente avranno, se le lezioni sono state impartite in maniera dignitosa, un'idea del senso che un romanzo scritto definitivamente scritto nel 1840 con quella forma, con quelle dinamiche narratologiche, con quella eccetera eccetera eccetera, ha una significatività particolare e saranno in grado di rendere quell'esperienza spendibile, quindi paradigmatica, anche nell'esercizio critico su altri argomenti e su altri tipi di campi. Dunque, perché la centralità culturale dei saperi strumentali? Perché rappresentano appunto, secondo noi, dei veri e propri saperi imprescindibili, perché attivano, orientano e rendono spendibile la conoscenza, perché rappresentano, dal nostro punto di vista, delle vere e proprie categorie di collocazione dei contenuti, cioè rappresentano il modo e il contenitore dei contenuti rispetto al quale il docente e il discente possono esercitare la propria intenzionalità, cioè la teleologia dell'apprendimento o comunque dell'insegnamento. Quindi è un elemento attraverso il quale i contenuti si attivano, i contenuti assumono senso infatti se codificati e metabolizzati attraverso i saperi strumentali. Che cosa vuol dire la revisione dei paradigmi? Un'altra parola alla quale ci siamo affezionati, ci ha dato il là Aldo qualche anno fa, poi ci abbiamo continuato a pensare. Noi parlavamo di revisione dei paradigmi epistemologici delle discipline, cioè è chiaro che le discipline scolastiche, così come vengono erogate in questo momento, sono efficaci solo per chi già va bene a scuola, quindi rappresentano in qualche modo un ulteriore elemento di differenziazione e comunque non rappresentano di per sé un elemento di crescita culturale e di crescita di cittadinanza, quello che appunto è fortemente connaturato in quell'idea della... La finalità della scuola qual è? Potenziare attitudine alla ricerca e senso critico. Questo è il nostro obiettivo, questo è il mandato che la Costituzione affida sostanzialmente all'insegnamento e agli insegnanti. Quindi la cosa sulla quale ci dobbiamo interrogare, che è molto banale, è cioè la ricerca di senso, cioè cercare di capire che cosa dobbiamo insegnare, come lo dobbiamo insegnare, perché lo dobbiamo insegnare. La mia esperienza nei corsi di recupero che quest'anno mi sono rifiutata di fare, corsi di recupero di latino in un liceo, in un triennio di liceo classico, è che sostanzialmente trovarsi una classe trasversale di terze liceo con criticità, a gennaio con criticità assolutamente disomogenea, quindi la spera perdita, come dire, di buttare al fiume 174 milioni di euro, quello che è stato l'anno scorso, è chiaramente anche testimoniato dai dati statistici che poi sono apparsi sul sito del Ministero, ma recidivamente si continua, sebbene con un taglio, per cui il progetto fallisce da tutti i punti di vista. Qual è? È che mi sono trovata davanti gente di 18-19 anni con 5 anni di liceo classico sulle spalle che, vi assicuro, letteralmente non aveva capito che cos'è un paradigma, cioè non ha, come dire, compreso l'elemento semantico intrinseco a questa parola, che forse darebbe un senso del fatto che attraverso quelle indicazioni tu individui appunto la regola attraverso la quale riesci a coniugare eccetera, che sembra una banalità e che però è molto più grave del fatto che poi non sapessero declinare in orizzontale un aggettivo della prima classe. Ma vi giuro, non è folklore, è esattamente così. Dunque, un insegnante che in qualche modo, come dire, abbia a cuore la propria professione e soprattutto nel corso dell'anno abbia tentato di dare, diciamo, ciò che era nelle sue possibilità dare, davanti a degli esiti di questo genere non ho motivo di dubitare che gli insegnanti delle classi, delle persone che venivano, perché poi sapeva c'era questo taglio macabro trasversale dei sommari della scuola, di tutte le classi, per cui una cosa assolutamente... Cioè, mi sono trovata a fare corso di recupero di italiano dopo la maturità l'anno scorso con un insegnante che voleva solamente le regole di metrica, secondo liceo classico, una che voleva solo il saggio breve, un'altra che voleva esercitazioni sull'articolo di giornale, un'altra che voleva la storia della letteratura, tutto in un pacchetto di 8 ore con 12 persone. Quindi pensate come i soldi dei contribuenti sono stati stati impiegati in maniera totalmente inefficace, inutile. Guardate, con tutta la buona volontà vi assicuro che è impossibile pensare di influire su una situazione, di incidere in qualche modo su una situazione di questo genere. Prego. Inciso in maniera brutale su questi ragazzi, quali costretti a venire di pomeriggio, valutati ancora una volta su cose fatte o non fatte, perché poi mentre sono stati tutti in colore. Esatto, è stato un brutalissimo, sì, è vero, perché non solo, ma anche sì, infatti. Dunque, quindi la nostra proposta di una eventuale ricostruzione, quindi di che cosa? Un'eventuale ricostruzione dei curricula vedrebbe questi saperi riabilitati ad una dimensione culturale, saperi strumentali. Adesso vi spiegherò perché, tra parentesi, ho deciso di mettere scuola primaria e medie, le grammatiche, logico, informatica, musicale, cinematografica, la logistica, aritmetica, geometria, i saperi del tempo e dello spazio, gli orientamenti storici, geografici, eccetera. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che mi interessa che mia figlia, che fa la quinta elementare, esca dalla sua classe, dal suo corso elementare, sapendo che cos'è una società fluviale, che gli assiri e gli egiziani non vengono uno prima e uno dopo perché sono disposti così sulla pagina del libro, e che abbia, possegga delle solide, ovviamente, riferibili, e così mio figlio che fa la seconda media, riferibili ovviamente all'anno in cui stanno facendo, categorie che gli consentano di essere recettivi in maniera significativa rispetto al riempimento di questi contenitori, che secondo me deve essere stretta prerogativa o principale prerogativa, viceversa, delle scuole superiori, dove vengono implementate le conoscenze, scienze dei linguaggi, letterature e arti, scienze del pensiero, matematica e filosofia, scienza della vita, fisica, biologia, e proprio perché la scuola è un paradigma della complessità dell'esterno, non possiamo, come dire, non interessarci dei nuovi saperi e dei rapporti tra culture e discipline, dei quali per anni e per secoli ci siamo riempiti la bocca, multi, pluridisciplinarità, non si sa mai bene che cosa vuol dire che cosa, però di fatto è una, e d'altra parte, come dire, sfido anch'io l'idea, il mio corso di studi prevede 4 ore di letteratura in prima, in seconda e in terza, in prima faccio anche 4 ore di latino. Io credo che per 4 ore, per le settimane di un anno scolastico, riuscire, laddove non esistano quei prerequisiti che dovrebbero essere stati preparati in un altrove, che infatti si rivela il segmento, la scuola media più scricchiolante del sistema dell'istruzione, sfido io a riempire anche con dimensioni altre rispetto alla cultura che è stata consacrata negli anni dalla tradizione delle discipline. Quindi da questi lo fa, mi ha criticato pure lui, vabbè, non c'ho avuto tempo di rimetterlo a posto. Allora, dunque, la cosa, diciamo, la conseguenza di questo è che la ciclicità dei contenuti, dal nostro punto di vista, non è un elemento che accresce in maniera significativa quella dimensione di capacità di ricerca, di interpretazione critica, eccetera, eccetera. Cioè, ripeto, il fatto sempre che mia figlia abbia fatto gli egiziani e poi li faccia in prima media e poi li faccia in quarto ginnasio, in primo liceo, secondo me non ha altro effetto che disamorarla e demotivarla totalmente rispetto a quel tipo di argomento, perché diventano saturi di, e non esiste nemmeno la dimensione della progressione, in realtà veramente non serve a niente. Come non serve a niente, scusate, come dire, queste scorribande biografiche, perché sono quelle, insomma, ce l'ho proprio sotto mano, il fatto che mio figlio in seconda media faccia un compito in classe su Dante, Petrarca e Boccaccio, ma non faccia grammatica, analisi logica, non faccia soprattutto la madre di tutte le, tra virgolette, battaglie, cioè la comprensione del testo, che è trasversale a tutte le discipline. discipline scolastiche. Allora possiamo lungamente interrogarci su questo, possiamo chiederci se questi sono insegnanti che hanno una vocazione all'insegnamento superiore e non hanno fatto il coco, non lo so, cioè possiamo, ma dobbiamo fortemente interrogarci anche su che cosa noi dobbiamo declinare i nostri obiettivi. Certamente non credo che il fatto di aver dovuto spiegare Corinto di Lorenzo De Medici, ve lo giuro, in seconda media sia un fatto che abbia o accrescerà la sua attitudine nei confronti della letteratura italiana o della cultura, assolutamente. Il risultato qual è? Che nella sua classe il 60% dei bambini sono già in uno stato di... poi verranno recuperati, perché naturalmente siamo all'euro, quindi viviamo in un quartiere in cui difficilmente quei destini saranno canalizzati automaticamente, siamo nati fortunati, però certamente se ci interroghiamo rispetto al successo, al successo formativo e al senso dell'operazione, è un'operazione che veramente non ha nessun tipo di senso. Quindi bilanciamento dei saperi strumentali e delle conoscenze, la scuola primaria e la scuola media si dovrebbero occupare dal nostro punto di vista soprattutto di implementare i saperi strumentali, cioè di creare il contenuto, il contenitore dei contenuti, mentre la scuola superiore le conoscenze, cioè io penso proprio ad un trade-off progredire tra scuola media, diciamo i primi due segmenti di scuola e le conoscenze in un rapporto inversamente proporzionale. Quindi sì. Dalla televisione, dalla mamma, dal mercato, da tutto. E così anche alla fine. Esatto. Ma perché infatti, allora oggi in quel famoso rapporto OCSE, guarda caso, ci hanno informato che la scuola elementare italiana è una delle migliori nei 37 paesi, mentre la scuola superiore è una delle peggiori, quelle della media non hanno proprio detto niente perché ormai non la consideriamo nemmeno. Sostanzialmente è che nella scuola elementare l'elemento più significativo dal punto di vista didattico è proprio l'esperienza della conoscenza, cioè banalmente io vado in giardino, vedo che la foglia è caduta, è diventata marrone e lì poi parte, però io ho toccato, mentre noi come ricorderete eravamo della scuola Muschi e Licheni o Tungsteno e Bauxite, nessuno ha mai visto Tungsteno, non abbiamo idea delle categorie totalmente. Invece lì, nella scuola media, proprio la ratio didattica sta nel tentativo di, come dire, verificare sul campo, cioè un criterio molto semplice, empirico naturalmente, e però quella dimensione dell'esperienza rende di fatto indelebili le acquisizioni di conoscenza che si sviluppano in quel segmento di scuola. Ovviamente il bambino di 10 anni viene immediatamente, repentinamente catapultato con 8 insegnanti diverse che fanno rigorosamente lezioni frontali per 6 ore al giorno, che stroncherebbero anche, come dire, il mulo da soma più resistente, in cui vengono meno una serie di elementi, la relazione certamente rispetto a quanto era, ma soprattutto attraverso questa parcellizzazione totale delle discipline e lo scorporamento del rapporto causa-effetto, cioè la, come dire, l'esperienza, appunto il criterio empirico che permette di rendere quelle conoscenze così. Quindi è chiaro che noi pensiamo, ma questo sarebbe. C'è anche un po' di tremore a dirlo, perché dire un serio intervento sull'architettura degli ordinamenti lo dico, ma lo stiamo facendo anche noi. E allora così io non so se è meglio, come dire, far circolare delle idee, perché mi atterrisce per esempio tutta la strumentalizzazione che nel corso degli anni poi è stata fatta di alcuni provvedimenti che erano stati presi dal centro-sinistra da parte della destra, alcuni provvedimenti di per se stessi poco positivi, penso per esempio alla legge sulla parità scolastica eccetera eccetera, ma che messi a disposizione con un certo tipo di razzo poi sono stati stravolti, sovvertiti e resi letali per il sistema scolastico. Quindi insomma quelli di rispetto anche perché io come al solito credo di essermi sbrodolata abbondantemente. Allora, la cancellazione dell'obbligo a 15 anni che era stato istituito da Berlinguer è stata la cancellazione della riforma dei cicli scolastici, è stato il primo atto della Moratti proprio. Lei ci ha parlato di diritto dovere, i media hanno abboccato tutti dicendo dal titoloni che è stato innalzato l'obbligo a 18 anni, insomma vi ricorderete con il decreto di maggio del decreto attuativo di maggio del 2003 del 2004. Nella finanziaria del 2007, la finanziaria di Fioroni, veniva innalzato l'obbligo dal secondo anno di biennio con il criterio della transitorietà, vi ricorderete tutti, abbiamo fatto anche delle battaglie su questo e sull'unità, ho scritto una marea di articoli che non riuscivano mai a passare perché non erano ben accetti da una parte del centro-sinistra. Cancellato dall'emendamento al decreto 112 del luglio scorso, in cui sostanzialmente si parla con un'ambiguità assoluta, istituzionalizzata, non di obbligo scolastico ma di obbligo di istruzione, vale a dire che ovviamente per assolvere il criterio dell'obbligo è possibile anche frequentare percorsi e progetti, come recitava appunto la finanziaria del 2007, cioè la Moratti. In Europa, come credo che anche uno studio di Pino dimostrava, l'Italia è l'unico paese in cui l'obbligo scolastico è a 14 anni. Io poi adesso mi sto occupando proprio di questo argomento qui per uno studio che sto facendo per la provincia di Torino, sono tutte situazioni in cui l'obbligo scolastico è più alto in ogni altro paese d'Europa, peraltro sono obblighi che si stanno dilatando ma che sono arrivati al secondo biennio molto molto tempo fa. In tutti questi paesi di cui l'obbligo scolastico è più alto che in Italia, cioè ovunque, il biennio obbligatorio, cioè fino ai 15 anni, è considerato una propaggine della scuola media e non un inizio della scuola superiore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quel biennio contiene intrinsecamente una funzione orientante per il bambino e non invece una funzione totalmente disorientante o orientante verso la canalizzazione in un altrove che non è la scuola. Quindi sarebbe, dal punto di vista della revisione delle architetture scolastiche, ovviamente bisognerebbe, non basta, cioè dire l'innalzamento dell'obbligo scolastico, perché come si è ci ha dimostrato la storia fino alla caduta del governo Prodi, di fatto sic santibus rebus esistono delle condizioni di totale impraticabilità di una visione del genere di obbligo scolastico, che quindi delegittimano ulteriormente invece la potenzialità di questa, che potrebbe essere, se organizzata in una maniera efficace dal punto di vista didattico, dal punto di vista, naturalmente per questo ci vogliono investimenti, ci vogliono soldi, ci vogliono investimenti culturali, nulla, nessuno di questi elementi è associato alla parola scuola, né da destra purtroppo né da sinistra, e quindi beh, lì stanno facendo di tutto per propiziarla, quindi da questo punto di vista non si frena. Per quanto riguarda i segmenti, appunto, l'elemento della mediazione ci è sembrato fondamentale, un altro elemento dirimente che insieme all'implementazione dei diversi tipi di saperi, cioè noi nella scuola primaria abbiamo una adeguata funzione di mediazione, appunto, che se ne voglia dire, comunque il team di insegnanti ha avuto una funzione portante per questo, non solo per, diciamo, peraltro dal punto di vista della mediazione educativa, ma anche dal punto di vista di una serie di garanzie di cittadinanza che appunto quel tipo di organizzazione lì ha adeguato. Le scuole medie abbiamo, come vi dicevo prima, nella parcellizzazione degli insegnanti, nello scorporamento delle figure, un indebolimento della relazione. Nelle superiori l'oggetto disciplinare, cioè quella di lettere, tu perdi completamente, sai quello che fai, basta, e naturalmente proprio per la questione del monte ore, proprio per l'ulteriore parcellizzazione delle discipline, si perde completamente questo elemento. E si dispersione, che le maggiori crisi di disorientamento dei ragazzi avvengono nel passaggio tra un ordine e l'altro. Ovviamente i prodromi della dispersione, come cercheremo di dimostrare adesso, quasi finito Gennaro, si creano nella scuola media, perché questo disorientamento è come dire, progressivo, esattamente come progredisce l'instabilità del, diciamo, consiglio di classe e delle prerogative relazionali che il consiglio di classe, che invece vengono esaltate nella scuola elementare. Nella scuola media che cosa succede? Questa è un'evidenza del 2007-2008, dati del Ministero. Qui i distinti sommati non superano il sufficiente, cioè il sufficiente sono 36.9%, mentre tutti gli altri, come vedete, hanno delle fette statistiche. Quindi qui nella scuola media abbiamo evidentemente un preludio alla divergenza degli indirizzi verso il saper fare o verso il sapere, e sappiamo che l'indirizzo del saper fare porta con sé fisiologicamente un tasso di dispersione statisticamente mostruosamente più alto che nel liceo. Quindi la scelta di una scuola superiore, e mi riaggancio anche al discorso sul biennio, che deve essere un biennio orientativo, perché naturalmente c'è la maturazione dell'individuo, c'è una serie di elementi, è una scelta falsa. Naturalmente è inutile che vi dica che l'incidenza dal punto di vista sociale di quei buono e sufficiente è molto più rivolta alla fascia di popolazione socialmente più debole. Insomma, c'è ovviamente, ripeto, un strettissimo rapporto tra condizioni, ma d'altra parte, come dice, siamo i libri che leggiamo e che abbiamo visto leggere, la dimensione culturale, sociale, economica, eccetera, della famiglia di provenienza ha una funzione fondamentale. È l'ultima slide, felici. Allora, che cosa un processo di apprendimento deve essere significativo? Cioè deve portare significato da tutti i punti di vista, sia dell'apprendimento delle conoscenze, sia dell'ampliamento delle competenze di cittadinanza, della coscienza critica, della capacità di ricerca. Allora, noi pensiamo che la mediazione e la relazione educativa siano gli elementi cardine su cui fare transitare ciò che viene convogliato all'interno della scuola. Cioè, noi dobbiamo rifuggire dal rapporto autistico che spesso si istituzionalizza all'interno della scuola, e non è semplicemente modificando le condizioni non lezione frontale e laboratorio che crediamo che questo tipo di situazione possa in qualche modo stemperarsi e migliorare. I saperi strumentali sono i prerequisiti che i ragazzini implementano nei primi anni del proprio percorso scolastico, sono modelli di rappresentazione simbolica del mondo, paradigmi procedurali di comprensione del dentro e del fuori la scuola. Nel dentro della scuola, le conoscenze, siamo contrari, come abbiamo già detto, alla cinicità, e se sono rafforzate da saperi strumentali e rafforzanti i saperi strumentali. Sostanzialmente in questa schematizzazione, anche in questo correre frettolosissimo delle mie parole, si configura lo sforzo, la finalità verso la quale noi tendiamo tenderemo continuando ad elaborare e emancipando dalla situazione di dossier il documento che abbiamo prodotto. Thank you.